come tutto uguale e tutto cambia. Mezzanotte come tutto passa e se ne va. Più ci penso più mi viene voglia di svegliarti. Dimmi, dimmi come va. Sola nella città, mezzanotte come tutto parte e tutto torna. Un aereo fa una riga in cielo e se ne va. Mezza luna ferma sopra il tetto sembra finta, ma tutto senza di te. Tutto senza di te. Solo al davanzale apro gli occhi e non ci sei. Mezzanotte, luna dei pompieri, dimmi come stai. Mezzanotte, quattro gatti cantano un amore. Due ubriachi stanno già puntando qualche bar. Torna a casa in fretta da sua moglie ed io solo senza di te, solo senza di te. Mezzanotte, l'ora dei pompieri, dimmi come stai. Mezzanotte, l'ora dei pensieri, dimmi come stai.